sia che è la potenza che c'hai arrivare 9,5, potresti arrivare anche 9,10, dipende da quello che gli dai. Io ho andato a mangiare, vai. Io sto parlando con il Galaxy, adesso quanto ti sta arrivando. Avanti Tino, faccio come detto in quel drone, se non mi avete sentito. Mi sono offeso, buonasera a tutti. Ciao Tino. No, sono Salida. Hai visto, che ti ha sentito Eugenio. Ciao Eugenio. Ciao Gianni. Ciao Tino. Ciao Fra, sì, ho sentito l'antenna nuova, vabbè, a me non è cambiato granché il segnale, perché è forte arrivabile, forte sì, quindi non noto nessuna differenza, forse magari più Eugenio che lontananza riesce a valutare un pochino di più di tutti, dai. Sì, vabbè, dai, interessante che vada bene come l'altro di segnale, perché l'altro di segnale andava bene, solo che si è truccata in due. Capita anche a me dopo quasi 30 anni, ha tirato le cuoia, si è piegato, ma abbiamo messo il pezzo interno in vetro resa nuovo e l'ho rialzata. Sì, ma noi abbiamo buscato lo scheletro di una Game Master che ha avuto problemi di bobina, ci ha regalato lo scheletro, là. Quindi ci abbiamo tutti i pesi nuovi. Sono entrato a salutarvi, adesso niente, rimango un attimino con Rix, faccio due cose al computer e poi vado a mangiare. Riprendi Eugenio. Sì. No, non mangiare stasera, aiuto. Non mangia futidini, che ho brutto vizio. Ma guarda, sinceramente non ne ho neanche tanta voglia perché ne sto tornando da Nuoro. Ci abbiamo fatto un po' di ristorante, un po' di tagliato, un po' di arrosto misto, diciamo. Insomma, ho fatto il pieno. E beh, com'era la strada? Va bene, scorrevole, bella, sì, ci sono alcuni pezzi che stanno ancora aggiustando, ma è scorrevole. No, ma dico, non ce n'era né per roba del genere, non ce n'era. No, ho trovato un pochino di brina più che altro, perché siamo partiti in pezzo, siamo partiti alle 8. È mattinata, ma niente di che, giusto nei campi così. Dove, quando sono arrivato a Nuoro, lì nel campo c'erano i monti che si vedevano, insomma, in linea d'aria sono stati, credo, 1 o 2 chilometri, erano bianchi. Però, non so, se continua questa giornata così, credo che durerà ancora massimo 2 giorni e poi non ci sarà più niente. Sì, però guardala. Vicino a Vardara, là, tra fuori e Vardara, col camper, sì. Un freddo, poi infatti la notte ha ghiacciato di brutto. Lo sai, poi rilancio il mic a Franco, lo sai che io lì a Nuoro, io mi sono coperto, ho messo un golfino con l'altro, l'altro golfo sopra e poi il giubbotto a mezzanica, diciamo, quello, il piumino. Avevo caldo, mi ho tolto il giubbino perché c'era questa giornata, era spettacolare oggi. Non c'era freddo, è iniziato a sentirci un po' di ebbrezza verso mezzogiorno e mezzo, l'una, dai, quando quasi ne stavo per andare a mangiare, e niente. Però la giornata, insomma, il sole è scaldato. Vai Franco. Ehi, capo. Eppure quella zona lì è montagna, dovrebbe esserci più freddo di qua, ci dovrebbe essere, perché la montagna è sempre più in alto, cioè più fredda là, e poi avendo anche i monti pieni di neve vicino dovrebbe esserci freddo, e invece a quanto stai dicendo è normale. Sì, fra, io anche le donne per dire si sono scaldate, tra virgolette, al sole perché era una bella giornata e non era di quella tutti accobacciati e abboccucati, capito? Tra, addirittura c'era un po' anche il giubbotto, quindi si stava bene. Nonostante tutto, fronte a noi, ti ripeto, c'erano i monti con la neve, però credo che sono stati, ti ripeto, circa 2 chilometri in linea d'aria da noi. Poi sono salito al Belvedere e ho trovato solo appena un po' di ghiaccio nella strada, ma solo un pezzo, una pallata. Tutto il resto era già sciolto, no? Sto parlando che era già per 3, 3 e mezza. Ecco, non è meglio così. E allora già si può andare in giro. Non c'è molta neve, io pensavo che quella zona era tutto neve, era, e invece no. Avanti Gianni. Sì, allora, infatti da Campeda in poi avevano raccomandato le catene oppure le gomme invernali, avevano detto. Ho letto anche su internet questa cosa qua, poi che sia un fake non lo so, però avevano raccomandato queste cose qua, che c'era l'obbligo anzi di mettere. Poi adesso magari si è sciolta, che ne so. Ma da novembre in poi fino a gli ultimi febbraio, i primi di marzo, lì sono sempre obbligatorie le catene già, quindi sono sempre obbligatorie le catene, non è solo quest'anno, sono sempre obbligatorie. E comunque niente, io vi saluto e niente. Il mio campo di notte segnava interno 28 gradi, esterno 1 grado. Poi mamma, fedele dura. Ciao ragazzi, io vi abbandono e tante cosce calde a tutti. Ciao. Aspergi, e cosa ci facevi lì nelle zone plurie? C'è un amico che si è aperto un'area sosta, un agricampeggio. Siamo andati a collaudarlo e ti dirò che merita tantissimo. E poi mi dai le coordinate, mi dai, magari ci faccio un salto anche io quando sarà necessario, dai, andare, quando sono in possibilità di andarci, perché con queste partite sono un po' impegnato, infatti volevo andare anche io con Trump, però andare in mattinata non andava bene, poi sono senza catene, quindi non so, anche se ho da commettermi, che comunque. Va bene, dai, ti lascio andare, buona carica, buon tutto, buon divertimento, fa quello che vuoi, dai, ciao. Vai Franco. Scusate un attimo, mi sto organizzando per farsi la piscina, e diventa veramente bello quel posto, è veramente spettacolare, poi si mangia roba genuina perché è tutta fatta da loro, ci sono i maiali, ci hanno tutti gli animali, insomma siamo stati di un bene, noi ci facciamo il capodanno lì, siamo una ventina di camper più o meno, dai, numero più, numero meno. E passeremo una bella serata. Va bene, ciao ragazzi, buona serata, tanti baci, abbracci, baci dove volete voi, non c'è problema. Tante cosce calde, ciao a tutti, correti per me, ciao! Ciao Eugenio, buon correti, buon tutto, ce ne ascoltiamo. Avanti già. Ciao Eugenio, ci sentiamo, dai, ne approfitto anche io per salutarvi, così porto giù a Tyson, se no chi si lamenta, va, che alle 8 in punto mi dà la sveglia. Ciao a tutti, grazie per il QSO, correti per me, dai. Ehi, allora riprendo io, ciao Gianni, ciao Eugenio, buona passeggiata Gianni, dai, Eugenio, buona carica, buon tutto. Ecco. Ciao anche a te Gianni, che ascoltiamo, siamo di fare tante tanti incontri a Tyson. Allora, avanti Tino. Così è. E ti dico, sono un po' stanco anche qua, perché sono partito presto, vabbè sono stato lì sì, quindi tra preparazione e quant'altro, quindi adesso vediamo, facciamo un assaggino di qualche cosa e poi a mamma, che domattina idem con patate, lo stesso a fare la nostra porca giornata, come si vuol dire. Ecco, e allora, e così sono io, mi adesso chiudo lo stesso perché me ne vado a mangiare, poi ne accende più. Andare. Va bene, dai, allora ne approfitto, dai. Ti saluto. Tante cose belle, ci si riascolta. Buona nottata. Ciao, metti a te. Ci ascoltiamo alle prossime. Ciao, anche l'eventuale ascoltone, ciao a tutti. Ah, ci vediamo. Natalino, buonasera. Oh, ciao Carlo, buonasera. Come va Natalino? Ça va. Io mi sono rientrato da lavorare un'oretta fa e quindi adesso ho acceso, ho detto ma non ci sarà nessuno. E io stavo ascoltando da altre parti, e praticamente erano in qualche frequenza che io non so e ascoltavo solo uno. Stasera quando stavo rientrando sono uscito alle 8 e sul 20 mi sa che c'era qualcuno dei nostri colleghi Citizen Band che hanno anche la licenza radioamatoriale, stavano facendo penso delle prove per cui non li ho interrotti, capito, perché ho detto magari stavano verificando qualcosa, facendo delle prove loro, però li ascoltavo tutti e tre. Ehi K, però il fatto hanno il vizio di parlare in frequenze diverse, quindi ne senti solo uno. Io c'ho l'elenco delle frequenze dove vanno loro, ma praticamente avevo lo scanner andando e ne sentivo uno solo, capito? Poi avevo il monitor un'altra in HF e non erano lì, chissà dove mala sorte erano, deve essere che hanno cambiato frequenza e quindi non li ho sentiti, hai capito? Lo so, ma loro possono, noi no. Sì, loro possono e noi no. Cosa ti volevo dire? PMR ne hai tu? Sì, ce ne ho uno che non era il PMR, ma siccome da poco ho fatto un lavoretto a Antonello Bomponio, no? Perché lui aveva delle radio, quelle cinesine, no? Che sono anche 5 watt, però non erano canalizzate. E allora mi ha chiesto la cortesia se gliele potevo mettere, c'hanno mi sa 15 canali o 16, 8 gli ho messo i canali PMR e poi gli altri negli altri 8 gli ho messo LPD, capito? Perché ho un programmino nel computer che mi fa inserire quelle frequenze e quindi siccome ce le avevo salvate allora me ne sono procurato anche uno io di quelli lì e quindi praticamente ho quello. Ho capito. Dunque è che non c'ho il numero di telefono tuo, se no ti avrei detto un qualcosa. E già te lo faccio avere, magari per radio meglio di no, ma già te lo faccio avere Natalì. Ehi, magari se c'è la Pomponio gli dici di mandarmelo, e lui già c'ha il mio, e ti fa dare il mio, gli dici che ti ho autorizzato io. Guarda che Antonello ha anche il mio, E vabbè, digli di mandarmelo, e così ti fai dare il mio, gli dici che ti ho autorizzato io e non c'è problema. E appena lo sento già glielo dico, così mi faccio mandare il tuo numero, ti chiamo e così ci sentiamo magari, senz'altro. E ok, è meglio averlo il... ok. Volevo sapere una cosa, ma tu guardia giurata sei lì ad Alghero? Noi abbiamo il decreto di guardie particolari giurate, capito? E facciamo i controlli di sicurezza ai passeggeri, bagagli a mano, bagaglio da stiva, poi facciamo i controlli della perimetrale, i passaggi, insomma tutte quelle cose che di sicurezza, no, che ci sono in aeroporto, ce le abbiamo noi, capito? Siamo dipendenti della società di gestione e quindi facciamo tutto noi. Sì, ho capito. Abbiamo la cosa, anche la videosorveglianza, insomma di tutto e di più, abbiamo anche la centrale allarmi, tutto quanto, capito? Tutte le telecamere, tutte quelle cose lì facciamo tutto noi, gestione, quindi là lavoriamo 24 ore su 24 con i servizi notturni, capito? Io ho capito. Secondo che società siete, magari conosce mio nipote. Aspetta che entro. tratto l'R2 alfa. Cos'è il ripetitore VHF? Sì. Ho capito, ho capito. Perché io ho il ricevitore sempre andando, adesso l'ho abbassato. Con Antonello Pomponio ci stavo parlando ieri, mi sa che stavo andando a lavorare, e praticamente con lui ci ho parlato da Sassari sino all'aeroporto, e lui esce forte, capito? Quella zona con l'antenna sua, lui è già un pochettino in alto e quindi ci arriva bene in quella zona. Ma anch'io dovrei arrivarci bene quando piazzo l'altra antenna. Questa qui c'è un metro dal tetto, sono in zona bassa, non posso pretendere. Adesso devo comprare una verga da 4 metri e poi ci piazzo sull'antenna, poi ne ho un'altra da piazzare sempre lì, che l'ho comprato anche due nuove. Che io mi sono preso l'antenna, mi ho preso la J-Pol, quella della Smartech che ce l'aveva Claudio, e avantieri ci siamo visti e sono andato e me la sono presa, però devo avere diciamo un po' di tempo libero per poter togliere quella che ho, quindi mi tocca salire sul tetto, togliere e smontare questa qui che ho, e assicurare il cavo, lo devo anche tirare un po' su perché già ne ho qua da dove sto trasmettendo neanche troppo, quindi me lo tiro su, devo realizzare una sorta di piccolo balloon da 10 spire che lo metto alla base più o meno dell'antenna e poi ci piazzo quella lì. Io lo stesso, siccome sono anche troppo in alto, quindi non è che mi basta un palo di diciamo 2,5 metri, capito? Praticamente un metro mi esce dal tettuccio, 2 metri ce li ho sopra il tettuccio, e siccome anche lunghezza quella c'è 8 metri di altezza, quindi non è che devo salire ancora più su, capito, essendo in alto, perché se no poi non ce la faccio a fare le regolazioni, no? se ho necessità di regolare il ROS che ho giù, capito? Ascolta, puoi passare in FM, o sai che disturbo qua? Sì, passo in FM. E perché in FM ti disturba di meno? Non disturbo le televisioni, capito? Poi sto uscendo basso. Mi senti bene? Io ho voglia. Mi scappa, è meglio in FM, da. Diminuire anche i watt se vuoi, perché qua mi arrivi a fondo scala, capito? Sono già a zero. Io come ti sto arrivando lì? In FM dovrei uscire più forte pure. No, per 60. Cazzarola. Esce che è una bellezza questa antenna. Te credo. Aspetta che metto un po' di squelce, perché sennò ecco qua. E adesso anch'io un pochettino abbasso, esce, non si sa mai, lo abbasso anch'io un po'. No, perché si sentiva come staccavi il... capito? Sì, ho capito, ce l'avevi troppo alto allora. E niente, quindi adesso quando avrò tempo, Natalia, anche io come te sono diciamo nella tua situazione, nel senso che io già esco bene, perché anche 4-5 giorni fa ero a casa di mattina, mi sa che avevo il giorno libero perché era tarda mattinata oppure avevo il turno di tardi, e ho provato ad accendere e c'era qualcuno che faceva chiamata ed era Franco che stava rientrando da Alghero, quindi lui si trovava a Coso, al bivio di Olmedo, no, un po' prima del bivio di Olmedo, e mi ha detto che praticamente io arrivavo bene, e con lui ci ho parlato sinché è arrivato a Sassari e ha fatto la vecchia strada, quella che poi esce, come si chiama, sotto Conforama, la zona industriale di Predanie, dammi la vecchia strada, vecchia strada Sassari-Alghero, capito, non ha fatto la quattro corsie nuova, e mi ha detto che anche giù nelle curve, nei fossettini, eccetera, dice arrivavo tranquillamente, sempre con segnale forte, radio buona. Perché tu sei in alto, dalla Landriga è passato, là. Esatto, non mi veniva la Landriga. Sì, esatto, è passato da lì, comunque già diciamo che va bene, più che altro la voglio sostituire perché praticamente questa antenna J-Pol ha diciamo la capacità di sentire anche i segnali bassi perché prende poco QRM, capito? Essendo una 7 ottavi. E anche la mia, pure se non è 7 ottavi e quella che ho io è praticamente un dipolo in verticale, mi laghi in mappe, l'ho preso, quella lì è molto sfiduosa lo stesso e ti fa praticamente ricevere anche quelli più bassi, poi la metterò anche più in alto, quindi siamo a cavallo. Comunque dovrei avere due portatili bibanda, uno già lo do a te, non c'è problema, così c'hai un po' di frequenza. Sì, poi già per quello già ci sentiamo, sicuramente ci vedremo anche uno di questi giorni, dai. Comunque appena sento Antonello, oppure già lo chiamo domani, perché adesso oggi è domenica, magari chiamarlo, magari sta con i parenti, non lo so a quest'ora, e già glielo dico che ti passi il mio numero, oppure che mi dia il tuo, capito? Così poi ci sentiamo al telefono, è più facile. Sì, ok, io lo chiamo io e gli dico di darti il mio numero, non c'è problema. Oh signor, almeno se ci dobbiamo dire qualcosa in privato abbiamo quello, capito? Infatti, tu WhatsApp già lo usi lo stesso, no? Eia. Allora anche messaggi e cose del genere, perché ormai gli sms non li usa più nessuno, Natali. Ehi, infatti. Poi io giusto il servizio sms lo sto usando perché quando stamattina mi sono prenotato per la terza dose e ti arrivano lì i messaggi sugli sms, no? Avevo un appuntamento per il 3 di febbraio, ma era troppo in là, quindi l'ho annullato, ho fatto un'altra ricerca e adesso me l'ha dato il 20 gennaio dalle 13 alle 14, qua giù alla fine del Ponte Nuovo in via Grazia dell'Edda, diciamo. E anch'io devo andare lì il 30, sono prenotato. Poi ho già fatto anche il vaccino anti-influenzale che mi ha chiamato la dottoressa, il 17 l'ho fatto, capito? E il 30 farò la terza dose, da, diciamo così. Già ci vuole, meglio farla così. Si sta un pochettino più tranquilli, dai, è giusto per quello. Poi bisogna sempre ovviamente usare questo diavolo di mascherine, che pensavo che dopo un anno e mezzo che le mettessimo via, invece mi sa che le stanno facendo tornare di moda. E purtroppo lo vedi che non ne veniamo vincitori, tutto per colpa di quelli che non si sono vaccinati. Hai visto che è venuta un'altra variante, un macello. La dottoressa è preoccupata. Sì, lo credo, perché anche in Sardegna ci sono un sacco di contagi nelle scuole, eccetera. Mia moglie è lo stesso, mia moglie glielo fanno l'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31, il vaccino. A me il 30 me lo fa. Infatti non vedo l'ora di farlo, almeno me ne libero. C'ho questo tasto del microfono che è duro e mi scappa ogni tanto. Magari c'ha la molletta che si è indurita, no? Oppure tocca da qualche parte e sarà per quello. Se no ci metti qualcosina che lo faccia scorrere appena appena, No, è un microfono un po' particolare, ma già c'ha il lock, adesso sto usando il lock, così non mi scappa. Se voglio disinserirlo devo usare il PTT. Capito, c'ha due tasti. Mi faccio così, tic. Ho capito. E niente, adesso speriamo di non aver bisogno di tiranti, però da quello che mi ha detto Claudio dice che tiranti non ce ne vogliono, se c'hai un bel palo di sostegno. Io c'ho il tubo quello grosso da 40 e di quelli telescopici, però non lo sollevo tutto, lascio solamente i primi due e la parte finale la metto dentro, così rinforza un po' gli altri, capito? Perché per adesso palo di sostegno non ne cambio, anche se ne ho trovato uno buono, però è da 2,65 m, ma è forse anche da 60 quello, molto più grosso. Metti quello nelle zanche, lo metti più in basso, la facile solo di 2 metri, molto ci vuole. Infatti poi alla fine devo vedere quando salgo sul tetto se ci passa nelle zanche che ho messo, non nelle chiusure, Se ci sta, mi sa che levo il telescopico e metto questo palo che c'ho, ma è una cosa spaventosa se tu lo vedi pesantissimo, grosso, e quello chi lo tocca più da lì una volta che lo metto, ed era praticamente nei corridoi del condominio buttato, quindi l'ho tutto pulito con col trapano, con la spazzola di ferro, no? È diventato lucido, è di ferro zingato e c'ha pure diciamo i buchi con la filettatura per, evidentemente era qualche telescopico di qualcuno che l'ha buttato lì. Ho chiesto, dice, ma di chi è quella roba da buttare? E me lo sono preso, ed è buono però, quindi sto pensando di levare quello che ho io, che è più leggerino, e di metterci questo spezzone che è bello lungo, 2,65, in origine doveva essere da 3 metri, ma qualcuno forse lo aveva tagliato, capito? Però forse con quello riesco comunque a sistemarci l'antenna nuova. E così non metti il tiranti, toglilo quel telescopico che è leggerino magari. Se è un'antenna così pesante è meglio che metti l'altro. Penso molto pesante, non credo che sia molto pesante. Adesso stavo guardando, vediamo un po', peso 7 kg pesa. Nulla è, mi stai dicendo, poi è anche alta, è meglio che metti l'altro il palo, Carlo. La retta a mua. Allora non l'ho pulito inutilmente, mi sa che allora mi tocca salire, smontare l'antenna, smontare il palo telescopico, mi porto su il nuovo, lo fisso e mi sa che ci aggiungo altre due staffe, capito, in parallelo a quelle che già ci sono, e così ne ha una giù, una su, e ne metto due al centro, e così da lì non si muove più, e poi là ci attacco l'antenna nuova. E infatti, allora sei attenuato, 9,60. Sto uscendo così, 9,60. Ehi, ti ho attenuato pure, non attenuami. Allora che sto uscendo con, aspetta, minchia, quanto esce questa roba, adesso più basso sono. E appena appena. Guarda, adesso sto uscendo con 3,5 watt. Ehi, ma in FM batte di più. Cosa ti volevo dire? Che apparato stai usando? C'ho un Albrecht 5890, quelli omologati AM, FM, SSB, al quale però in questi giorni ci ho fatto un lavoretto, capito, sul software che c'ha, facile, e quindi ho fatto questa cosa, non si vede niente, e lui è originale. Ok, meglio così. Io ho il Superstar 3009 omologato, capito? Ho capito. E questo c'ha anche il, diciamo, il tasto per regolare la potenza, poi c'ha il tasto quello per la calibrazione quando sei in SSB, capito, in banda laterale, per centrare bene la frequenza, squelce, poi c'ha sul microfono, si possono cambiare i canali, fare la scansione se lo tieni premuto, puoi cambiare anche lo step della frequenza. Aspetta che uso il microfono normale che ho riparato io, me l'ha regalato Claudio, che è di questa radio praticamente l'originale, no? Aspetta un attimo che lo attacco e così mi dici com'è. Carlo, fai un passaggio un po' più lungo. E questo è il microfono normale suo, ma è già bello chiaro questo, forse anche meglio dell'altro, E l'altro è di tavola. Diciamo che con l'altro era un po' più compressa la voce, con questo è più chiara, capito? E quello lì c'è il compressore, capito? Sì. E quindi un po' di tempo ci vuole, però praticamente tutta la prossima settimana mi sa che peggiora il tempo, perché mi diceva così qualcuno che la settimana, diciamo, prenatalizia, diciamo, il periodo di Natale dovrebbe fare brutto con pioggia e freddo. E se non fa bel tempo non è piazza, adesso domani vediamo se riesco a comprarmi il palo o la piazzo, tanto non è che ci voglia molto a piazzarlo. Io idem adesso, oggi era vabbè soleggiato, però domani lunedì c'è possibilità anche che piova, domani martedì io sono anche libero, oltretutto martedì e mercoledì c'ho due giorni, c'ho un libero riposo, per cui se trovo uno spazio però che non piove dovrei riuscire a salire, togliere questa che ho installato, togliere il palo e forse rimettere il palo nuovo, però rimarrei senza antenna poi per qualche giorno, finché poi mi dà la possibilità di salire e metterla, capito? Perché essendo lunga ce l'ho montata per metà e poi devo mettere tutti gli stilo, capito, che ci sono nella parte finale, che è la cosa più, penso, più complicata, cioè facile da fare ma complicata perché è molto alta, capito? Io purtroppo bisogna darsi da fare. E così almeno è finito e almeno così in estate ti diverti. Eh sì, molto probabilmente sì, se riesco a farlo insomma quanto prima, così non ci penso più, anche perché così risolvo, perché praticamente io dentro casa il filo molto lungo, quindi lo ributto fuori e me lo devo tirare anche da su dal terrazzo, io sono al terzo piano e devo arrivare sino al sesto, capito? E, essendo anche il filo grossino è un pochettino pesantuccio, ma già lo tiro, così me lo blocco con una fune e poi lo devo avvolgere in un tubo di quelli di plastica, no? Ce l'hai presente i tubi di scarico, i tubi fognari, quelli arancioni o grigi, no? Uno che ha un diametro da 10 e lì ci devo fare 10 spire col cavo, così me lo raccoglie e lo lascio poi alla base, perché nelle cose c'è scritto così possibilmente di lasciare un 10 spire di cavo sotto l'antenna, capito? E un RFC che è quello lì. Siccome ce l'ho il cavo, così anziché tagliarlo riesco a fare anche quello e la piazzo perfettamente e poi spero di non salire più sul tetto per un bel po'. E beh, lo credo. Se piazzi quel palo lì stai tranquillo che sei zingato e di lusso. Sì, zingato, pensa che come gli ho passato la spazzola di ferro è diventato lucido, lucido, lucido, lucido, dentro ruggine non ne ha niente, ma io penso che ci sia rimasto lì forse una ventina d'anni se non di più, era buttato in questo corridoio dove abbiamo i garage, diciamo, giù al piano terra. L'ha messo qualche condomino che o non c'è più o proprio messo lì perché magari gli dava fastidio dentro il garage. Ho chiesto, ma di chi è questo tubo, di chi è? Se lo prenda via, tanto l'ha messo lì, magari sarà da buttare. E me l'ho preso. E infatti, così almeno proviamo quell'antenna che dice che c'ha un sacco di guadagno. Ce l'aveva Claudio così e dice che è bestiale. Eh sì, io stavo leggendo anche un po' di recensioni nei giorni passati e chi, diciamo, la usa dice che è favolosa perché riesce a sentire anche segnali bassi che prima col QRM molto alto non riusciva proprio a sentire, rimanevano nascosti, quindi già quella è una caratteristica buona, no? Perché ti permette di, insomma, di parlare con più persone, anche quelle con segnale basso. Dice a vedere quanti battesi c'è, i pochissimi. Comunque anche quella che hai preso tu è una 5 ottavi, è una buona antenna quella. E infatti bisogna pigliare le misure e piazzarla come dicono loro. E ho visto che quella è lunga 5 metri e fruscia 5,80, qualcosa del genere. E infatti io se non prendevo questa avrei preso una di quelle lì come la tua, capito? Che è senza radiali, senza nessuna regolazione, è già pretarata, quindi la devi solo piazzare, collegare al palo, collegare col cavo ed è perfetta quella. E infatti... Quella lì adesso vediamo se fa in questi giorni bel tempo e ce la schiaffo su. Ne tolgo questa qui che quando piove si riempie d'acqua e mi salgono le stazionarie a due. Sì, io lo stesso, questa che devo piazzare io ha praticamente la regolazione su e devi solo tirare su, mi ha detto Claudio, appena appena lo stilo, piano piano, no, e a tentativi, perché lui l'aveva tarata però in base a come l'aveva piazzata lui, adesso bisogna vedere, non credo che da me vada bene la stessa taratura, quindi qualcosina dovrò toccare, ma forse già mi faccio dare una mano da mio figlio, magari lo metto giù, gli spiego un attimino come fare, io salgo su col telefono e gli dico se devo salire o abbassare, capito, riuscirò a regolarla così. E ti metti sul canale 20 al centrobanda e vedi quante stazionari hai. Sì, esatto, solo che porca miseria, ha fatto tutto bel tempo questa settimana, però io l'ho presa 2 giorni fa, capito, quindi l'ho presa, l'ho messa giù in garage, in questi giorni poi avevo da fare, sabato dovevo finire di sistemare l'impianto elettrico da mia suocera, quindi gli ho messo i cavi, gli ho passato, quindi messe le cose, i supporti, le placchette, interruttori, presa scaldabagno, ho collegato lo scaldabagno, poi mi sono dovuto mettere, attaccargli il portasciugamani eccetera, e portarottolo e questo e quell'altro. Sabato praticamente tutta la mattina dalle 8:30 del mattino ero a Bonorva sino a dopo pranzo, poi sono rientrato, cambiato, è andato a lavorare, non ho avuto tempo di niente. E io me lo posso immaginare, quando sono lavori così ti impegnano e quindi non puoi fare altro. Fortunatamente già ho terminato adesso con tutti questi impegni, almeno qualche giornata bella, spero di riuscire a fare tutto, lo stesso anche tu ti auguro di riuscirci quanto prima, così magari ti sistemi anche meglio là. E infatti, speriamo che faccia bel tempo questa settimana che viene. E vedi, se no aspetto, capito Carlo, io purtroppo devo chiamare degli amici per darmi una mano, se no da solo non ce la faccio a piazzarla, capito? Ho capito, se ti serve una mano volentieri, mi Natali, se hai problemi eccetera ci vengo anche io, lavoro permettendo e se coincidono le cose non ti mettere problemi. E ok Carlo, non c'è problema, vediamo un po', la prima cosa è buscare il cavo, perché tutto l'altro, il palo voglio dire, tutta l'altra roba è già pronta qui, pronta a piazzare. Quanti metri di cavo ti servono? No, non me ne serve il cavo, il palo. Devo prendermi un palo zingato da 4 metri, in modo che un metro lo lascio dentro, almeno esce 3 metri dal tetto, capito? L'antenna. Sì, ho capito. E col cavo sei già a posto, ce l'hai già? Sì, è lungo, quindi lo tolgo fuori, questo che ho in più dentro casa, e via. Che tipo di cavo stai usando, il 213 RG? Il 213 ho, e poi c'è una calata di H155. E allora già va bene, no, perché se ti serviva una ventina di metri ce li ho io di 213, capito, te l'avrei dato. E ok, non c'è problema. Che quello che avevo io l'ho tenuto 5-6 mesi, però era troppo corto, capito, e ci arrivava a malapena, e allora ne avevo preso 30 metri, capito, e non l'ho tagliato, quindi ce li ho tutti 30 metri adesso, e diciamo che non lo taglio e lo lascio così, lo avvolgo come ti ho detto e lo tengo intero così. E gli fai il simmetrizzatore, si chiama ciocche quello lì, il simmetrizzatore per l'antenna, già ho capito, ci vuole il simmetrizzatore in quell'antenna. Sì, chi lo chiama simmetrizzatore oppure chi lo chiama balum, fatto sta che avendocelo gliele faccio quei 10 giri di spire e poi lo blocco con fascette o qualche ferro, fil di ferro zingato, capito, e che lo tiene fermo, così lo blocco là e finisce così. Gli metti quelle fascette da elettricista, quelle nere. quelle ne ho una valigia giù in garage. E quelle lì li metti e così lo tieni ben, ben messo. Il tempo che ci vuole a fare tutto, il problema è che il tempo spesso non ce l'hai, adesso martedì, mercoledì spero di riuscire a fare qualcosa, tempo permettendo, perché mi sa che qualche passata d'acqua la darà, è che no, non voglio rimanere molto tempo senza antenna qua, capito, perché dopo che ho fatto un sacco di casino per mettere questa, adesso puoi toglierla, rimanere solo col palo, il cavo e non poter mettere l'antenna mi scoccerebbe, capito? E infatti, all'ultimo momento l'avrei tolta proprio, adesso tu piazzati quel palo lì, ci piazzi questa antenna che c'hai già e poi con calma ti fai l'altra, quando è pronta, boom, la piazzi, ne togli una e metti l'altra. Sì, sì, già mi organizzo, uno di questi giorni, anzi forse domani ci riesco, domani mattina, mi avvicino da Bricoman e voglio vedere se hanno di quelle zanche del modello che avevo preso, capito, che sono da incassare nel muro, perché mettendo quel palo più grosso, solo con due non mi fido, capito, quindi gliene metto altri due, così rimane attaccato in quattro punti il palo, capito. Ma guarda, due bastano e avanzano, basta che siano lontane, 1,20 m una dall'altra. E ne va la prima rubarazzo di rubaro. Calcoli fatti da un geometra, che era anche il radioamatore, questo amico mio. Sì, in teoria sono così, perché ne ho messo una alla base e l'altra diciamo all'estremità diciamo più alta del tubo e sarà circa così un metro e mezzo, perché dai piedi diciamo io sono quasi 1,77, sono quasi 1,80 e quindi mi arriva a livello degli occhi diciamo l'altra, quindi dovrebbe essere a 1,50 m, 1,60 m una dall'altra. E anche troppo, 1,20 m basta e non è, guarda, non escono manco se ti ammazzi. Se c'è lo spazio, almeno un'altra gliela metto al centro, capito? Che credo male non gli faccia, capito? E fai così, cosa vuoi che te dica? Comunque due bastano e avanzano per un palo da 2 m. Perché praticamente sono in un muro di una casetta di un vecchio vaso d'espansione dell'impianto di riscaldamento che non è più in uso, dove da una parte ci sono le antenne TV e invece tutti gli altri lati diciamo sono vuoti, quindi lì io avevo forato col trapano, avevo messo delle placche all'interno con i bulloni e dadi, capito, dall'altra parte, quindi non è che le avevo messe col cemento, ma proprio attaccate al muro da un'estremità all'altra, capito? E siccome il muro sono mattoni di 8 quelli, non è molto grosso e non vorrei che, vista l'altezza dell'antenna, scuoti col vento che magari indebolisse anche quel muretto, capito? Quindi se ce n'è qualcuna in più magari tiene fermo meglio, e così evito di mettere tiranti al palo di sostegno, capito? Già è attaccato quasi al muro. No. Mettila, se la vuoi mettere, la terza placca, ma io avrei lasciato quelle due perché sono più che sufficienti, se sono a quella distanza lì, è mai detto. Sì, sì, poi vedo un po' quando glielo, diciamo, presento, no, il tubo, levo l'altro, vedo un po' com'è, se vedo che è stabile al limite non la metto, tanto anche a tubo inserito riesco a metterla, capito, perché svitto tutto, metto le placche, eccetera, poi già riesco a sistemarlo, ma è lavoro di pochi minuti quello, faccio 4 forellini da 8, massimo da 10 col trapano e la corrente già me la porto sul tetto perché sono vicino al vano ascensore, c'è una presa elettrica per cui metto la prolunga e porto sul trapano, già riesco a farlo in pochi minuti, quello non è un problema aggiungerne un'altra per maggior sicurezza. presenza. Il problema è che il tempo, che sono piccole, ancora corte le giornate, fa buio presto, capito? Invece d'estate ha voglia che la sfrutti la sera. Lo so, purtroppo ci è capitato in inverno questa situazione, a me mi si è riempita d'acqua, mai me l'aveva fatta, deve essersi consumato qualche gommino, qualcosa, e mi entra l'acqua dentro la bobina, quindi una volta che agganna nell'acqua mi manda in corso tutto. Quello è un grosso problema, se entra acqua, magari quando la porti giù quella puoi provare a metterla a posto se ci riesci, e magari può servire a qualcuno, non lo so, magari riesci a venderla pure rimessa a posto, capito? No, l'ho regalata a un amico, quello che mi dà una mano a piazzare l'antenna, la mettiamo a posto e se la piazza lui lì in campagna, capito? Infatti già va bene così, così non si perde, capito? Perché magari ancora è buona. Quelli sono problemi che si possono anche risolvere pulendola bene, si fa asciugare, si vede un po' come lo stato dentro, dove era l'acqua, se non ha creato problemi di ossidazione, di calcare, di tante cose, capito? Se si pulisce bene, i radiali ha questa, vero? Allora, invece che questa qui adesso non è radiali, perché avevo problemi anche di TVI, e quello lì, infatti è per quello che ho fatto passare in FM. Ho capito, sì, senza radiali è meglio, dai, è meno fastidiosa da quel punto di vista per il TVI. E poi oltretutto è silenziosa e sentirò, siccome c'ho QRM qua, mettendola più in alto, essendo più silenziosa, l'antenna sentirò anche quelli più deboli, da. Perché a me mi sentono sia Alghero, dice, che a Coso, e sto uscendo basso basso per non disturbarmi. Non posso aumentare, perché se aumento guai, allora. A Porto Torres se mi sentono, però io li sento bassi. Se non passano il Santiago 9 non li sento, capito? Mi arriva a Santiago 9 molte volte il QRM qua. Sì, ho capito, vabbè. Ma l'antenna che stai piazzando nuova ce l'ha anche Giulio alle punti, e mi ha detto che non ce l'ha molto, neanche molto in alto, ma Giulio esce forte dappertutto. Io Giulio lo sentivo anche a Bonorva, a Giave, l'ho sentito rientrando, capito? E arrivava bene, lui non mi sentiva, giusto Claudio riusciva a tirarmi fuori, perché Claudio, con lui ci ho parlato da Giave, su dal paese, quando era Bonorva, e io ero in macchina ovviamente uscendo con 6-7 watt, 8 watt massimo, capito, in AM. Lo so, anch'io davvero prima ero a fianco a Claudio, praticamente a 426 metri sopra il livello del mare, l'antenna è sopra un palo da 12 metri ed è una mantova 5 e usciva forse da tutte le parti. Ho capito, quindi prima eri là in zona Carbonazzi, dai, in quelle zone alte. No, a fianco, a Filighidu, io c'ho la campagna, abitavo lì prima di sposarmi. Ho capito, sì. E poi te ne sei andato una volta sposato al centro di Sassari. Wow, me ne sono pentito, non mi dovevo sposare. Solo per Lubi. Se ti sto dicendo che se ne sta ridendo l'antenna, 2 mesi c'aveva quell'antenna quando me ne sono andato, e se ne sta ridendo, è sopra un palo da 12 metri, sono due spezzoni da 6 metri, uno che entra dentro l'altro. Mannaggia, e vabbè, dai. Bisogna fare a volte un compromesso, Natali, o una cosa o l'altra, e tu hai scelto l'altra e va bene così. Va bene così, c'avevo una stazione lì quando era Filighidu, paurosa. C'ho il dipolo multibanda sopra un palo da 10 metri. Capito, e lì è una zona favolosa perché sei in alto, capito? Lì arrivi dappertutto, da lì si domina, infatti Claudio già arriva dappertutto. C'è un amico mio, buon'anima, che è morto adesso, che era radioamatore, no? Saliva da me a farsi DX in banda radioamatore. perché lui non aveva antenne. Ho capito. Maledizione, a vedere se vuol dire la zona, anche io dove abito io qua c'è una bella zona alta, ma soprattutto io non ho palazzi vicino e diciamo dove abito io è proprio tutto aperto, vedo i tetti degli altri palazzi e sono tutti più in basso, ho capito, nelle quelli del vicinato, tutte le zone di via degli astronauti, lì ci sono palazzi anche alti, ma sono lontani, capito, lontani. Io c'ho quel parco delle suore dietro, non c'ho costruzioni e da lì esco molto bene. E infatti sei libero, quindi esci molto bene, poi con quell'antenna dovresti fare faville. Sì, infatti non vedo l'ora di piazzarla, adesso speriamo bene. Esci a vedere che ora abbiamo fatto, le 10, ci credi che sono ancora in divisa io, non mi sono tolto niente, ho cenato, qua c'è solo la radio, sono qua. sì, in divisa, se sei appena rientrato praticamente, e cosa vuoi, purtroppo. L'altro giorno ha fatto una battuta, non so, Marco Scurpi, ero vicino a casa sua, no? E mi ha detto, Micheli ti sparano, ed è nella strada dove io abitavo più su di Marco Scurpi, e mi stava prendendo per il sedere, e quando mi sparano già c'ho Asia Glock appresso, e queste pistole di plastica mi stava prendendo per il sedere, no? E già è di plastica, non ti preoccupare. Già va bene, dai, finché si scherza va bene, Natali. E mi ha detto che mi sparavano lì, e io lì ero il padrone praticamente. Lo credo. Oh, iaia. Mi sa che ti saluto, Natalie, perché sono le 10, mi finisco di mettere comodo, mi metto in pigiama e mi guardo un po' i risultati, c'è la partita, non so se tu lo segui il calcio, Milan-Napoli, non so neanche come sono messe. No, io seguo solo la nazionale, quando gioca la nazionale la vedo con piacere, dai. Vabbè, dai, Carlo, ti lascio al tuo da fare. Buon proseguo, alle prossime, Alfa 1 QRT. Via Natali, grazie del QSO, della chiacchierata, ci sentiamo e appena ho il tuo numero già ti chiamo al telefono, capito? Chiamerò Antonello e gli dico di darsi il mio numero. Ok, alle prossime, ciao Carlo. Ciao, buonanotte, buon tutto Natali, alle prossime, ciao, buonanotte.